quanto che sia. Hai la scoliosi, hai la faccia da topo, sei alto la metà di me. Ti ammazzò sbagliando vena, lo specialista ad ortopedia. Se tu vedessi come siamo combinati qua, se tu ci fossi, se tu vedessi, ma ci hai lasciati qua, se tu ci fossi, se tu vedessi come siamo combinati qua, se tu ci fossi, se tu vedessi, noi siamo ancora qua. Stavamo al sesto piano di un palazzo del quartiere, tua madre non me la scordo, eppure qualcuno l'ha fatto, questa città sparisce dall'almanacco, se tu ci fossi e tu vedessi, noi siamo ancora qua. Se tu vedessi come siamo combinati qua.